Si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Una buona giornata a tutti voi ascoltatori di Radio 24, una buona giornata a te Carlo, come va? Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buon sabato. Va bene, va abbastanza bene, una settimana in cui ho cercato anche di trovare delle soluzioni per andare in vacanza, quindi ho provato a cercare dei posti e devo dire che ho trovato quasi tutto pieno, quasi tutto esaurito e ne sono contento, anche se dovesse questo costarmi il rimanere a casa, ne sono contento perché mi sembra una buona notizia. Poi ovviamente ci saranno posti meno pieni, si immagina, però mi è sembrato un buon segno. Ti è sembrato un buon segno ed hai ragione, perché effettivamente, insomma, questo significa che qualcosa riparte. Dall'altra parte bisogna essere sempre molto prudenti, io ci tengo a dirlo, come lo dico ai miei familiari, insomma, siate prudenti andando in giro, rispettate le regole che ci sono state date, perché è meglio un pochino di sofferenza adesso, magari con la mascherina, per poi stare tranquilli più avanti, no? Perché certo, poi i dati che ma vediamo... Ma si vede anche... E si vede anche che ci sono persone più lungimiranti, anche quest'estate, dove per fortuna si pensava che uno potesse dire no, non ho prenotato niente, c'era tutta questa questione, e invece si può essere in ritardo anche quest'anno, c'è qualcuno che si è organizzato meglio. Sì, o comunque che si è mosso per tempo, no? Che ha scommesso sul esatto, a maggio esatto. Ha scommesso sull'estate, ha detto io prenoto, poi vediamo. È vero, anche va se anche leggevo... detto che si può annullare con grande facilità, quindi immagino che magari ci siano anche una parte di prenotazioni di persone che poi magari non andranno in vacanza, questo lo dico per correttezza anche nei confronti degli albergatori. Sì, questo è vero, io ho letto dall'altra parte anche di albergatori che hanno rifiutato prenotazioni provenienti dalle nostre zone, ahimè, dalla Lombardia in particolare. E, questo... e soprattutto se dici la parola bonus, se dici la parola bonus di solito senti non ci credono. tu. Dici, ma guarda te, chissà come mai, io non lo so, non mi capacito di certe cose, non riesco a capire questa, sensazione questa malfidenza. Esatto. Questa... Va bene, come sempre potete chiamare all'800 24 00 24, sia per i vostri commenti sia per partecipare oggi che è sabato al nostro quiz. E ti voglio dare questa notizia appena fresca per gli ascoltatori, ma anche per te a dire il vero, perché abbiamo dei nuovi libri da mettere in palio, una nuova collana che sarà edita dal Sole 24 Ore, che comincerà a uscire nel corso della settimana, è specificamente dedicata ai piccoli, la collana Quid Più, il lato divertente, o plus o plus, scegliete un po' voi come leggerlo, il lato divertente di imparare, è una proposta editoriale in quattro uscite per i bambini da 0 a 7 anni, dedicata agli ambiti del percorso di crescita e apprendimento, quindi ce ne sarà una dedicata alle emozioni, una al linguaggio, una al pensiero logico, la percezione del mondo e l'apprendimento, dedicata a 0 a 7 anni. Insomma, un bambino in casa o nella famiglia ce l'abbiamo tutti, e quindi questo è il nuovo regalo per chi decide di partecipare al nostro quiz. E poi c'è il 349-238-6666 per i vostri messaggi SMS, che può leggere anche Carlo, o WhatsApp, che posso leggere solo io. Lo ricordiamo tutte le volte, no? Perché poi sembra giusto, che tu non giusto. Li voglia leggere. Non è così. È che da casa no, WhatsApp... Mi mancano moltissimo quei WhatsApp, lo sai. Senti, cosa ti ha colpito questa settimana? Qualche buona notizia? Ma sì, guarda, l'altro ieri a New York, nell'ambito della grande movimentazione che chiede la fine del razzismo istituzionale e della brutalità della polizia, hanno dipinto a caratteri cubitali la scritta Black Lives Matter, come ormai siamo abituati, nel mezzo della Quinta Strada, davanti alla Trump Tower. Trump non l'ha presa proprio bene, diciamo, immagino temendo per la svalutazione dei suoi appartamenti, o forse che sua zia non trovasse parcheggio sotto casa, non lo so. Era presente anche il sindaco di New York, Bill de Blasio, e la buona notizia è il suo discorso. Ha detto alla folla di presenti: quando ho annunciato che oggi avremmo disegnato questa scritta proprio davanti alla Trump Tower, il presidente ha detto che stavamo denigrando i fasti della Fifth Avenue. Noi non stiamo denigrando proprio nulla, noi la stiamo liberando, noi stiamo edificando la Fifth Avenue. chi ha costruito questa città, chi ha costruito questa nazione senza che gli venisse mai riconosciuto? Infine, credo per ricordarlo bene al presidente populista e sovranista che con 133.000 morti che continuano ad aumentare ha avuto il coraggio di dire: non esiste paese che abbia gestito meglio il coronavirus degli Stati Uniti, coprendosi di ridicolo, il sindaco Bill de Blasio di New York ha chiuso così: non esiste nessuna affermazione più americana, non esiste nessuna affermazione più patriottica che dire «There is no America without Black America». Non esiste nessuna America senza l'America nera. Nel 2020, chi ancora pensa che le vite dei neri non contino o che contino meno della vita di chiunque altro, è fuori dal mondo, dalla storia, dall'umanità. Sostanzialmente è un pirla, ignorante, profondamente stupido che non serve a niente e a nessuno. E chi è che è a favore della discriminazione, io mi chiedo? Cioè, quale politico, essere umano, parteggia per l'ingiustizia palese e manifesta? Chi è che pensa che le vite umane valgano a seconda del reddito, o del colore della pelle, o della religione, o dell'orientamento sessuale? Eppure, come ben sappiamo, ce li abbiamo anche noi, eh? Proprio oggi ci sarà chi andrà in piazza per battersi contro una legge che vuole punire chi discrimina apertamente gli omosessuali. Hanno scelto lo schifoso hashtag Restiamo Liberi, immediatamente modificato in rete nel più corretto Restiamo Omofobi, perché ci si chiede: ma restiamo liberi di far che cosa? Di picchiare gli omosessuali? Di uccidere le lesbiche? Di licenziare uno perché è africano o va al Pride? Chiudo con le parole di Beyoncé, anche queste belle, che si batte per il Black Lives Matter e ha chiesto a tutti di andare a votare come se la nostra vita dipendesse da questo. Ricordiamocelo anche noi quando saremo nelle nostre cabine elettorali. E sai Carlo, io mi voglio riallacciare non al tema portante di questo tuo intervento, ma alla parte che riguarda il Covid in particolare. Ho scoperto questa mattina dalle pagine della Repubblica che a Genova è nata una palestra dei reduci del Covid, cioè è stata istituita un centro di riabilitazione specifico per riattivare cuore, muscoli, polmoni dopo la malattia, perché, dicono i medici, l'80% dei casi ha strascichi fisici e psicologici molto pesanti. In rianimazione si invecchia di 10 anni, e quindi è stato così deciso di istituire questo centro dove si riprende un po' a vivere, ci si rifanno un po' i muscoli, si rimpara a respirare, si cerca di ricentrarsi un po' dopo avere passato magari settimane in ospedale, e quindi con conseguenti traumi fisici e psicologici per questa malattia, che purtroppo è una malattia pesante, non diciamo così, non è che si limita ad essere una polmonite, che già di per sé sarebbe grave, ma ha moltissime conseguenze fisiche che necessitano di una cura molto particolare. Mi sembra molto bello questa iniziativa, io l'ho scoperta oggi, cerchiamo magari di averli ospiti. Cosa ne dici per farci un po' raccontare cosa succede? Come si mi può sembra, fare? L'ho vista anch'io questa notizia, e mi ha incuriosito molto proprio per la questione che è una malattia diversa, è una malattia che dobbiamo ancora conoscere. Per esempio, non sapevo che avesse poi degli strascichi, per esempio, sulla memoria, su come dicevi anche tu, su questioni psicologiche, oltre ovviamente a volte anche gravi conseguenze fisiche, polmoni, la respirazione. Quindi ho visto queste belle immagini di questa palestra dove ci sono nell'immagine ho visto più ragazzi, diciamo, muscolosi che pedalano e infermiere e infermieri con mascherina e vestite di verde che li accudiscono. È un bel mix, diciamo, di sportivi con assistenza medica. Esattamente, esattamente. Magari se anche c'è qualcuno di questi pazienti che ci sta ascoltando, magari ci chiami, possiamo farlo, ci può raccontare un po' come funziona. Allora, ci avviamo verso la viabilità e quindi siamo già pronti? No? Sì? Ci avviamo verso la viabilità, tra pochissimo parleremo di acqua, perché è stata creata la prima grande rete di gestori delle acque pubbliche in Lombardia. Vorremmo sapere un po' che progetti hanno, cosa intendono fare, insomma, questo grande agglomerato, il più grande su scala nazionale, che cosa ha in mente di fare. Ne parliamo tra pochissimo dopo le informazioni sul traffico. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora 800 24 00 24, per eventuali pazienti della clinica Covid, no Carlo, come dicevamo prima, ma anche per tutti coloro, sì, che vogliono partecipare al nostro quiz oppure commentare, insomma, in qualche modo i temi di cui parliamo e stiamo parlando e parleremo nella prossima ora e un quarto ancora, abbiamo appena cominciato. Allora, il primo dei temi di giornata è sicuramente quello che vi anticipavo prima: Water Alliance, le acque di Lombardia si riuniscono per una ripartenza economica e sociale del territorio. È la rete che è stata tenuta a battesimo nel corso della settimana dal ministro dello sviluppo economico Buffagni, dal presidente della regione Lombardia Fontana. Questa rete si chiama Water Alliance, comprende 13 imprese idriche pubbliche lombarde che hanno anche un miliardino di euro come fatturato, leggo, e un piano di investimenti consistente per i prossimi 5 anni. Ma insomma, qualche specifica in più e soprattutto gli obiettivi ce li chiarisce Alessandro Russo, che è il portavoce di questa Water Alliance e anche il presidente di Gruppo Cap Holding. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, ce l'avete fatta, no? Eravamo partiti nel 2015 con poche e adesso siamo a tutte le imprese pubbliche lombarde. Sì, da 8 a 13 nel giro di 5 anni. Adesso tutte le province, ogni provincia ha un gestore, diciamo, del servizio idrico, che è l'acqua del rubinetto, insomma. E adesso, ma non solo, è anche quella che poi scartiamo, no? Nel senso, quella che abbiamo usato. Le fognature e la depurazione, quello che viene chiamato ciclo idrico integrato. Quindi partiamo dall'acqua, l'acqua la prendiamo, la facciamo potabile e poi la ripuliamo dopo che è stata utilizzata e, tra virgolette, la rivendiamo ai fiumi oppure ad uso agricolo, insomma. Quindi questo è un po' il nostro mestiere. E che cosa vi proponete con questa alleanza che è stata, no, siglata? Questa alleanza ci permette di fare economie di scala laddove ce n'è necessità, ovvero di mantenere il servizio in prossimità laddove invece c'è bisogno, quindi di avere la doppia scala dimensionale, per cui le aziende rimangono provinciali e gestiscono le acquedotti e le fognature sul loro territorio, visto che l'acqua è un bene prezioso molto legata proprio al territorio, pensate ai lavori che vengono fatti, sono molto locali, ma allo stesso tempo quando dobbiamo fare cose più importanti, faccio un esempio per gli ascoltatori, la gara per la fornitura di energia elettrica che occupa quasi 200 milioni di euro, l'abbiamo fatta tutti insieme, ovviamente strappando un ribasso molto alto, perché chi si è aggiudicato la gara per ottenere appunto tutto il lotto di tutto il consumo di tutta la regione Lombardia ha dovuto offrire un prezzo molto basso, e allo stesso tempo abbiamo chiesto che fosse soltanto energia green, quindi siamo riusciti anche a caricare anche, tra virgolette, un po' di elementi di sostenibilità in questo progetto. E questo è solo un esempio di tantissime altre cose che facciamo insieme. Se mi permette, Se mi permette, è un esempio straordinario. Ha praticamente in 45 secondi ha spiegato il senso dell'Unione, ha spiegato, se vogliamo, anche il senso dell'Europa, cioè anche se stiamo parlando di una questione locale, ovvero lombarda, di tutti gli enti lombardi, ma il senso è esattamente questo. Quando ci si presenta in 8 milioni e mezzo, che sono più o meno gli abitanti della Lombardia, si strappa un prezzo migliore perché si dice o mi fai un prezzo migliore oppure noi in 8 milioni e mezzo andiamo via. È lo stesso concetto dell'Europa: in 500 milioni si è più forte piuttosto che San Marino che cerca di strappare un prezzo da chiunque. Quindi, intanto la ringrazio per questa spiegazione. Grazie, è stato molto più bravo lei a sintetizzarla, comunque è esattamente questo. Allora, ma un gruppo così grosso dall'altra parte, siete in imprese pubbliche, sembra quasi un monopolio, non so. Cioè, fate impressione, siete diventati grossi, non era piccolo e bello. Piccolo, infatti la cosa bella è che le aziende mantengono la loro identità. Ogni volta che facciamo gare di questo tipo, per esempio, c'è chi decide a volte di aderire o non aderire. Le faccio anche qui un esempio: l'azienda di Sondrio, in quel caso dell'energia elettrica, non ha partecipato perché loro hanno un sistema di produzione, diciamo, di produzione idroelettrica, Esatto, stavo per per cui non dirlo. avevano quel tipo di necessità lì. Abbiamo fatto la stessa gara sui fanghi, sullo smaltimento dei fanghi, e quindi questa cosa ci permette di viaggiare a tante velocità. Ogni azienda ha la propria autonomia e di volta in volta decide a cosa accedere, a cosa no, ed è la sua responsabilità. Però la rete si propone, diciamo, un pacchetto di iniziative che singolarmente la singola azienda non potrebbe fare. Quindi di fatto noi aumentiamo il ventaglio dell'opportunità. E poi un'altra cosa, pensate a tutto il discorso informatico. Cioè, noi lavoriamo tantissimo col sottosuolo, le nostre reti sono invisibili perché viaggiano sottoterra. Stiamo parlando di decine di migliaia di chilometri di reti. Il fatto di avere delle uniche piattaforme, delle uniche banche dati che ci permettano di parlare la stessa lingua, un po' come la comunità europea, per noi è una cosa pazzesca, perché non è che il rifiuto dell'acqua molto spesso non si ferma al confine della provincia, passa da Monza e magari finisce a Milano. Oppure il fiume Adda, pensate, il fiume Lambro, attraversano diverse province e ricevono gli scarichi dai nostri depuratori. Quindi, come abbiamo fatto, poter controllare la qualità di un fiume su una scala interprovinciale è un beneficio che puoi fare soltanto in un'ottica di rete. Ma allo stesso tempo abbiamo dimostrato che non per forza bisogna fare la mega azienda regionale di 8 milioni e mezzo con il sindaco che poi non sa, visto che stiamo parlando di 1200 comuni, con il sindaco che poi non sa a chi chiamare quando invece c'è il bisogno che il nostro servizio porta, che è il bisogno locale, quello un po' più spicciolo, no? Quindi Infatti questa è la sfida. l'esempio è di nuovo molto preciso, in realtà è riuscire a C'è un problema sulla linea di Carlo. Comunque sì, l'esempio è quello che appunto di cui la questione è quella di cui parlavate poco fa, per l'appunto, no? Nel senso che se uno ha un referente locale preciso riesce a risolvere la questione rapidamente. D'altro canto è utile avere un controllo su tutto perché in realtà il territorio è unito, cioè voi siete la città metropolitana di Milano col gruppo CAP, altri sono i vostri vicini ed è giusto che vi comunichiate nella stessa lingua. Questo non c'è alcun dubbio. Però abbiamo ancora un paio di minuti. Io vorrei, Presidente Russo, ho visto che il Gruppo K ha iniziato una serie ha una serie di iniziative, come sempre, molto belle sul territorio appunto della città metropolitana. Ho visto la questione delle sabbie di scarto della depurazione per impiegarle nei cantieri. Quindi state cercando veramente di realizzare l'economia circolare no, del settore idrico. Sapevo che le sarebbe piaciuta. Sì, anche qui provo a fare un riassuntino velocissimo. Le sabbie sono, avete presente le sabbiettine, quelle che ci sono anche per esempio sulle strade? Quando piove finiscono tutte in fognatura e poi dalla fognatura finiscono gli impianti di depurazione o vengono, diciamo, prelevate da quelli che vanno a fare la pulizia dei tombini. Le sabbie finivano in discarica perché le sabbie ovviamente sono mischiate purtroppo a bottiglie di plastica piuttosto che cotton fioc, piuttosto che stracci. Noi abbiamo studiato questo impianto, che è un impianto se vogliamo anche abbastanza semplice, però concepito, insomma, poi magari in altre occasioni ne parleremo più tecnicamente, che di fatto che cosa fa? Riestrae le sabbie che appunto che erano nelle strade, le pulisce, le disinfetta, le separa da altri materiali. e le rende riutilizzabili. Siamo la prima azienda d'Italia ad aver ottenuto la certificazione End of Waste, quella del, diciamo, del governo, che ci permette di riutilizzarla come materia prima seconda. E queste sabbie che noi recuperiamo le vendiamo a prezzo simbolico ai nostri fornitori, che le utilizzano quando fanno i cantieri per riempire i cantieri, quando li riempiono dopo aver cambiato i tubi. Mm. E quindi quello che genera è: non portiamo le sabbie in discarica, ma le recuperiamo e le riutilizziamo. E allo stesso tempo diamo un piccolo contributo ad abbassare il prezzo dei lavori che noi stessi facciamo, di modo che questi costi, ovviamente, sono, noi siamo un servizio in concessione, per cui sono, ricadono direttamente nella bolletta, ci permettono di, appunto, di garantire il fatto che oggi nel nostro territorio la bolletta è di fatto la più bassa d'Europa. Insomma, vogliamo continuare a mantenere questo livello di qualità, e anche nel rapporto qualità-prezzo l'economia circolare per noi la stiamo interpretando così. Va fatta, certo. Poi voglio dire, sì, io prima, perché visto che sento la musica, quindi dobbiamo chiudere, che c'è anche, sì, l'acqua depurata per la pulitura delle strade cittadine, che mi sembra anche questa una grande iniziativa. Non usiamo l'acqua potabile per pulire le strade. Allora, Alessandro Russo, presidente di Gruppo CAP, portavoce di Water Alliance, grazie per essere stato con noi. Ritroviamoci per parlare di queste cose. Quando vuole, sempre un piacere. Grazie. GR24 con Carlo, che adesso è tornato in linea, ci troviamo subito dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Ancora una buona giornata da Laura Bettini e da Carlo, vero che adesso il collegamento regge, funziona, va tutto bene? Carlo Gabardini. Carlo Gabardini, buongiorno. Saluta a tutti. Ok, bene, sono contenta di averti recuperato forte e chiaro. Allora, 824 00. Ma non parlerò di me in terza persona per tutta la trasmissione. No, dai, ci piaceva un po' così, faceva un po'. No, è bruttissimo. Allora, dicevo, 824 0024 per chiamare. Oggi si concorre, tra l'altro, per partecipare al quiz. 349 238 6666 per i vostri messaggi via SMS e WhatsApp. Prossimo argomento che affrontiamo, parliamo di uno dei progetti scelti dalla Fondazione Italia Sociale. Sono 5 i progetti che sono stati scelti come Civic Action, come progetti di valore civico e sociale, che sono stati sviluppati anche durante l'emergenza Covid. Uno è Leila, la biblioteca degli oggetti, l'altro si chiama SOS Ballarò a Palermo, Quarto Tempo a Milano, promosso dal Rugby Milano, Remade in Università Luiss di Roma per ridurre le conseguenze negative dell'industria tessile sull'ambiente, e Migrant Tour di Napoli. E allora, per parlare proprio di questo Migrant Tour, noi abbiamo in collegamento Giulia Sanchenko. Buongiorno Giulia. Dobrovoranko, buongiorno a tutti. Buongiorno, io non lo so, posso dirlo in russo al massimo, che non è la stessa cosa però. No, è molto vicino. È vicino, è vicino. Vabbè, immagino Ucraina stiamo parlando, esatto, come origine. Sì, sì. No, perché noi Sanchenko, subito Shevchenko ci è venuto, cosa dobbiamo pensare? Assolutamente sì, è un nome super tipico ucraino. Io rappresento la popolazione migrante più grande di questa bellissima e grandissima città che è Napoli. E che cosa vi siete inventati lì a Napoli, o meglio, perché poi succede a Napoli, succede anche in altre città d'Italia, d'Europa, però nello specifico di Napoli, che cosa fate con questi tour? Sì, perfettamente come ha detto lei, ci trovate a Torino, non me personalmente, ma le mie colleghe e accompagnatori interculturali a Torino, a Milano, a Roma, a Catania, a Firenze, a Napoli. E cosa facciamo qui? Noi facciamo scoprire un mondo della città di Napoli, perché viviamo tutti in questa città e accompagniamo italiani, napoletani in giro per le strade storiche di Napoli a scoprire come la viviamo noi, ucraini, bengalesi, senegalesi, romeni, ivoriani, tutti quanti. Abbiamo 4 itinerari in cui, senza andare fuori dai confini di Napoli, si può scoprire tante culture e tanti mondi diversi. Ma quindi non è che si visitano i musei di Napoli, no? Si fa un tour alternativo? Sì, anche musei. Perché no? Perché musei sono talmente ricchi che troviamo riferimenti, ad esempio, in uno degli itinerari che si chiama addirittura Tutti i volti dello scambio. Scopriamo, grazie a documenti bancari del 500, che Napoli era un mercato degli schiavi, si potevano vendere e comprare delle persone. Una pagina inquietante della storia della città di Napoli. E di tante città, in realtà, d'Italia e del mondo, come sappiamo. È una pagina inquietante della storia quotidiana, ancora oggi, purtroppo. Carlo, stavi molto per fare vero. Una domanda, no? Sì, io trovo straordinario questo progetto e lo dico per un motivo molto semplice, che quando viaggiamo, quando abbiamo la fortuna di poter andare a conoscere altre persone, altre culture, troviamo che sia tutto arricchente, si ha voglia di conoscere le altre persone, di mangiare come mangiano loro. Poi invece quando torniamo a casa nostra, in Italia, nelle nostre città, che sono per fortuna colme di altre etnie, di cittadini di altre nazionalità, che sono magari i nostri vicini di casa o i proprietari del negozio che sta proprio sotto casa nostra, lì invece perdiamo la curiosità. E quindi trovo straordinario, io credo, però lo chiedo a Giulia, credo che sia soprattutto per i cittadini di quella stessa città. Cioè io voglio andare a fare quello di Milano, cioè voglio capire e voglio incontrare persone di altre culture che abitano la mia stessa città in un altro modo. Carlo, lei ha perfettamente ragione, ha proprio centrato l'obiettivo di queste passeggiate, scoprire il mondo nella propria città, ora che non possiamo, anzi possiamo anche andare all'estero, però risparmiando parecchio si può scoprire più di un paese in una passeggiata di un'ora e mezza nella propria città. Molto. Guardi, sarà che non riesco a prenotare da nessuna parte, quindi penso che passerò agosto, spero che ad agosto siate aperti anche a Milano. No, al di là della battuta, perché ne avevamo parlato con Laura a inizio trasmissione sulla difficoltà a volte di trovare delle prenotazioni anche in questi tempi di Covid, però trovo che sia ci faccia venire voglia, ci dica delle altre cose di questo multiculturalismo, del fatto che uno all'improvviso impara che il suo vicino di casa mangia in un altro modo e tra l'altro resta il vicino di casa, perché la cosa bella è che poi questa cosa qui, se te la porti in qualche modo nel cuore, poi ce l'hai per 365 giorni all'anno. A proposito di mangiare, che è una cosa importantissima, culturale, Napoli ha lanciato anche un progetto, indovina chi viene a cena, un giorno al mese, uno dei stranieri in città a sorpresa invita il massimo delle persone che può ospitare a casa sua e cucina qualcosa della propria cultura e condivide. Io non ho partecipato bellissimo ancora a questo progetto perché non ho abbastanza sedie, per dire. Ma anche abbastanza voglia di cucinare nel mio caso. È complicato, preferirei saltare 2 spaghetti che farmi in voltini di verza 3-4 ore. Si fa prima, no? Con lo spaghetti. Esatto. Però lo chiamerei indovina chi cucina più che chi viene a cena, perché la cosa straordinaria è che chi cucina invece è uno che viene da un altro posto. È una sorpresa per entrambi, sia per l'oste che anche per gli ospiti, perché non si sa dove si va. Fino all'ultimo momento non certo si sa chi arriva a casa tua e non si sa, non sanno i commentari che cosa mangeranno sorpresa questa sera. Io devo chiedere un'ultima... Sì. Sì. Devo chiedere un'ultima cosa. Questo progetto io non possiamo implementare in questo momento, quindi ripartiamo con le passeggiate all'aperto. Ecco, meglio. Prego, prego. Allora, ci sono delle tariffe di partecipazione nel caso uno volesse, no? Adesso come fa? Ci si iscrive, si paga? Sì, c'è un contributo da pagare, dipende ovviamente dalla città, no? Dai itinerari che si fanno. E ora stiamo ripartendo in tutte le città d'Italia con misure dovute di sicurezza, magari accorciando oppure allungando le passeggiate più all'aperto, e vi prego di andare a consultare le pagine Facebook del Migrant Tour di vostre città. Ok. E vedere ecco, ci dica esattamente Migrant Tour, quindi. Migrant. Dobbiamo digitare Migrant Tour. Migrant Tour, e troverete più di un Migrant Tour, ad esempio c'è pagina Migrant Tour Napoli, gestita da Cooperativa Casba, oppure Migrant Tour Roma, Firenze, Milano, eccetera, eccetera. Benissimo, certo. Io lo faccio quest'estate, ne provo uno, sicuro. Lo dico. Grazie. Magari a Napoli, Giulia, veniamo. Assolutamente, siamo qui, non ci muoviamo. Grazie, grazie molte, Giulia Sanchenko. E ricordo appunto, Migrant Tour su Facebook, c'è la viabilità. Si può fare. Se la sportività che cerchi in un'auto non è solo parcheggiare sul marciapiede, se la tranquillità del divano è l'ultima cosa a cui pensi quando sali a bordo, se cerchi sempre qualcosa che non si confonda con gli altri, per te è arrivata nuova Seat Leon, sportiva, connessa, ibrida. Oggi con un nuovo design e l'esclusivo Seat Light Concept. Fari full LED, illuminazione interna a LED intelligente e personalizzabile e LED posteriore cost to cost. Nuova Seat Leon, disegnata dalla luce. Tua da 19.500 euro. Scoprila su seatitalia.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Recentemente, Carlo, ti ricordi della notizia di Verona che aveva avviato la raccolta differenziata per poi proseguire con lavorazione e riciclo dei pannolini per bambini? Ora questa raccolta si è interrotta nel periodo del Covid perché la sperimentazione, insomma, risultava essere un po' difficile, quelle persone che non potevano muoversi per raggiungere questi speciali cassonetti. Però è ripartita e allora a questo punto ci è sembrato un ottimo momento per sentire un po' da Antonio Fazzari, che è il nuovo general manager di Fater S.p.A., come stanno andando le cose, che dati ci sono su questa sperimentazione di Verona, perché insomma del sistema che è stato inventato ormai da tempo nella divisione Fater Smart, noi parliamo già da tempo qui a Si può fare, quindi siamo un po' interessati a seguire un po' tutta la vicenda. Diamo il benvenuto ad Antonio Fazzari, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno ai radioascoltatori. Allora, questa questione buongiorno. Della raccolta e poi riciclo dei pannolini per i bambini a Verona. Cominciamo da questa, poi voi avete fatto anche un report sulla responsabilità sociale d'impresa che ci ha dato varie curiosità su cui vogliamo un po' sentirla. Ma iniziamo da questi dati della raccolta di Verona. Sì, se partiamo dai dati, partiamo da belle notizie. Abbiamo 1.500 famiglie che ci hanno seguito e hanno aderito a questa attività, vuol dire che una famiglia su due a Verona con bambini da 0 a 3 anni ha deciso di fare qualcosa di diverso, che è quello di prendere i pannolini e portarli in questi smart bin di cui parlavate. Significano 300.000 pannolini raccolti, l'equivalente di piantare un parco da 1.000 alberi, quindi i risultati sono andati onestamente oltre le nostre attese. Perché questo era un pilota, è stato fatto prima in un'altra città d'Europa, Amsterdam, ma Verona batte Amsterdam 3-0, ma dai. Siamo molto felici di questo, sì, è un bel segnale, credo. Ma batte nel senso che la partecipazione è stata superiore? La partecipazione è stata superiore, è ovvio che noi abbiamo anche potuto beneficiare di alcuni insegnamenti che avevamo avuto lì, però è sempre bello vedere, parlate con una persona che ha vissuto e lavorato 10 anni fuori da questo paese, penso che sia importante parlare anche delle belle cose che possiamo portare. Questo ne è un esempio, è un esempio di partecipazione delle persone e credo sia anche un esempio di un altro elemento. Voi ho capito che ci avete già raccontato e vi ringrazio per questo, ma è un esempio di come si possa fare sistema. noi siamo convinti che non esistano aziende sostenibili, ma esistano solo sistemi sostenibili. Se un'azienda da sola si mette in testa di fare la sostenibilità, fa poca strada. Ma nel dire questo lei ha in mente quindi il lavoro che vabbè si fa in azienda ovviamente per il prodotto, per no, l'economia circolare che sta nel prodotto, e poi intende, non so, la collaborazione del Comune di Verona per esempio? Sì, per fare un progetto del genere, allora, innanzitutto serve una tecnologia, quindi Fate Smart, che è la società del nostro gruppo, ha creato questa tecnologia che è unica al mondo e che deve essere messa a disposizione. E poi servono le istituzioni, quindi assolutamente il Comune di Verona, che ci ha dato una grande mano, ci ha aderito all'iniziativa con grande entusiasmo. Servono gli operatori di raccolta, servono i distributori. Noi abbiamo avuto la collaborazione del gruppo Esselunga, che ringrazio perché è stata essenziale per noi. E poi servono i consumatori. Ora, questo sistema si deve parlare, ognuno deve fare un passo indietro nel proprio giusto ego. E questo è un elemento di sistema che non sempre in questo paese succede, in questo caso è successo e credo che sia molto, molto incoraggiante. Volevo ricordare, per chi non avesse seguito prima, diciamo, che cos'è Nuova Vita, solo per essere chiari, si tratta di un progetto nel quale noi appunto stiamo sperimentando come dare una nuova vita a tutti i materiali che sono non solo nei pannolini, ma in tutti i prodotti assorbenti per la persona, che oggi vanno in discarica a un inceneritore e che domani, anzi oggi, invece potranno essere, no? Materia prima, essere seconda, scomposti con plastica, con cellulosa e con polimero, e quindi con questi materie prime e seconde ci possiamo fare diverse cose, appendi abiti, banchi di scuola, carta riciclata. Proprio tra pochi giorni noi, per ringraziare le famiglie di Verona, distribuiremo alle famiglie che hanno aderito all'iniziativa 5.000 libri fatti con carta riciclata dei pannolini, che tra l'altro raccontano la storia di Lino, il pannolino, e la sua nuova vita. È una storia che si può raccontare ai bambini, una storia molto carina che racconta di sostenibilità e di come possiamo fare la differenza per l'ambiente. Beh sì, no, molto bello, anche perché questo resta come ricordo. Prego Carlo. Io le volevo chiedere una cosa. Intanto siamo molto contenti del risultato e in maniera sportiva anche di avere battuto Amsterdam, e ci sembra una cosa importante perché ne abbiamo parlato spesso. Io le volevo fare una domanda che forse è stupida, ma è un po' a monte, nel senso che finalmente si riescono a trovare il modo per riciclare una grandissima massa di prodotti assorbenti, pannolini, assorbenti interni con grande difficoltà. Ma io mi chiedo, ma nel 2020 com'è possibile che non riusciamo a produrre dei pannolini biodegradabili? Abbiamo la plastica biodegradabile, abbiamo le macchine che non vanno più a benzina ma sono elettriche, siamo andati sulla luna ma non riusciamo a produrre un prodotto assorbente che sia automaticamente biodegradabile, così che ognuno lo possa buttare nell'umido senza raccogliere pannolini sporchi. Ma innanzitutto non mi sembra una domanda stupida, mi sembra una domanda importante, perché ciò che è impossibile oggi, se non iniziamo a lavorarci, non sarà possibile domani. Io le confermo che oggi questo non è possibile, ma non è possibile, non è che non è possibile a Verona, in Italia, non esiste oggi, certo, al mondo una tecnologia che lo fa, per un motivo molto semplice, che come immaginate parliamo di un prodotto che contiene delle cose che è molto difficile rimettere nell'ambiente. E quindi ha un livello di sfida tecnica molto alta. Qualcuno in maniera maldestra ha provato a posizionarsi con un po' di greenwashing in un modo o in un altro, ma ovviamente non è così. Quindi oggi è tecnologicamente impossibile, oggi è il momento di farsi la domanda di come renderlo possibile, quindi è una giusta domanda. Mentre facciamo questo ci sono tante altre soluzioni per rendere l'impatto ambientale di questi prodotti zero, se non positivo, come vedete. Direi che questa è un'ottima risposta. Giustamente ci occupiamo di trovare una risposta a quell'altra domanda, ma giustamente nel frattempo ricicliamo e non facciamo sì che tutto questo finisca in un inceneritore. Io credo che fare solo l'altro sarebbe una sconfitta. Dobbiamo lavorare su entrambi. Oggi ovviamente noi siamo felici perché perlomeno una prima risposta ce l'abbiamo. Senta, a proposito di ciò che possiamo fare, nell'attesa che tutto così scambi, c'è, ho visto, una vostra attenzione anche particolare sulle confezioni. Voi avete, vabbè, c'è questa linea di pannolini, prodotti assorbenti per la persona che tutti conoscono, Lines, Pampers e così via. C'è anche tutta la questione dei detersivi, in particolare ACE, e che vedo che anche lì si riducono gli imballaggi, e si cerca poi di ottimizzare anche in generale la logistica. Quindi mi pare che ci si stia muovendo su vari ambiti in azienda. Sì, vi racconto la storia di ACE. Se ce la fa in un minuto e mezzo. In un minuto e mezzo. In un minuto e mezzo cerco di dire che abbiamo un obiettivo chiaro, che è quello di ridurre nel 2025 la plastica vergine del 50%, però un po' come dicevamo prima, mentre facciamo questo abbiamo iniziato a disegnare dei progetti un po' più estremi. Abbiamo disegnato un progetto che si chiama ACE Green. Siamo andati innanzitutto dai consumatori a dire: ma ACE ha la titolarità per parlare di green? E siamo stati felici nel sentire assolutamente sì, le persone si aspettano delle risposte dai grandi marchi, quindi ci hanno incoraggiato. E stiamo sperimentando sul mercato, proprio in queste settimane lo stiamo mettendo a punto con alcuni distributori in Italia, alcune linee di prodotto. La più estrema riduce il quantitativo d'acqua dal 95 al 99% ed è fatta totalmente con packaging in cartone al 100% plastic free, perché è in monodose o in ricarica. Sono progetti che nel vecchio mondo, quando ho iniziato io a fare questo lavoro, ci avremmo messo 5-6 anni per avere tutte le risposte. Oggi abbiamo deciso un po' il concetto di sistema aperto, di sperimentare, essere aperti, andare velocemente dai consumatori e poi creare un sistema agile per immediatamente correggere quello che non va e puntare su ciò che va molto bene. Quindi io spero che nei prossimi mesi iniziate a vedere questi prodotti, e contiamo poi sullo stesso effetto Verona, cioè sulla collaborazione delle persone, perché è da loro poi che dobbiamo imparare se le risposte sono risposte che vanno bene per i loro bisogni, perché la sostenibilità è, perché poi c'è una questione solo di praticità, una questione di comodità di utilizzo del prodotto che viene proposto. L'importante per noi è sapere che si può fare, cioè che si può cambiare il tipo di proposta, non necessariamente dobbiamo stare ancorati a quella tradizionale, che soluzioni di packaging o di riciclo ci sono. Antonio Fasari, la ringraziamo molto, General Manager di Fater S.P.A., buona giornata, buon proseguimento. Grazie a voi, buon lavoro. E diamo il benvenuto a Francesca dalla provincia di Monza Brianza, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Francesca, che bella voce pimpante e squillante. Io vi ascolto sempre, Beh, però c'è molto da imparare. Però ci sembra piemontese, esatto. Signora. Ma io sì, io sono una valsusina. Pure pura. A Vaie, che è un paese, veniva definito il paese dell'acqua una volta. C'erano 11 fontane nel mio paesino. Sì? Ma che e bello. Quindi è migrata in Lombardia. E sono, sì, adesso sono tanti anni che sono qua, sto benissimo, L'abbiamo accolta bene? Mi piace anche Brugherio, sto bene. Bene, siamo contenti. Io mi agito perché non riesco a trovare il foglio del quiz, Carlo, ce n'ho troppi sulla scrivania. Io posso leggere. Vai, comincia tu, dai, comincia tu che magari lo trovo. Gli ingegneri della NASA, signora mi ascolti, gli ingegneri della NASA hanno inventato un dispositivo anti-Covid e hanno pubblicato le istruzioni per realizzare questo dispositivo anti-Covid a casa con una qualsiasi stampante 3D. Che cos'è questa invenzione? È un drone ombra che segue il proprietario in ogni momento e lo spruzza col disinfettante ogni 10 minuti. Oppure, risposta numero 2, è un caso automatizzato che abbassa la visiera, è un casco, scusate, automatizzato che abbassa la visiera da solo quando rileva la presenza di qualcuno. Risposta numero 3, è un ciondolo che vibra ogni volta che si avvicinano le mani al volto, alla bocca e al naso. Ma le trovo tutte e tre un po' strane, particolari, però quella che potrebbe essere più credibile è la terza, secondo me. È brava la signora Francesca. È vero? Signora, sì. Lei è bravissima. Non credo che io avrei indovinato. Cosa che ti bello. Piace? La NASA ha inventato questo ciondolo anti-Covid. Quindi purtroppo non le regaleremo il ciondolo, ma le regaleremo un bellissimo libro di questa nuova collana del Sole 24 Ore. Ma lei ha nipoti, signora Francesca? Io no, no. Io non ho qualche nipoti, bambino che conosce, c'è. Le dico che ho molte amiche che hanno dei nipotini e io quando devo fare un regalino, lo faccio volentieri, sempre libri, però prima li leggo io. Bene, allora li leggo io, poi li regalo ai bambini e sono tutti contenti. Allora noi le manderemo un libro che lei leggerà e poi regalerà a qualche bambino tra le sue conoscenze. Si chiama Emozioni per i più piccoli. Allora adesso abbiamo una piccola pausa, ci ritroviamo tra poco. Grazie Francesca, alla prossima. Grazie, buongiorno. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Six in the morning, the man started working. I can't sleep, no, I can't sleep. I keep feeling the light, so I think I should get up and call you. Gonna find you, and it's fun. Thinking of you like a movie star. And it's dumb thinking of you like the way that you are. Allora, le cose si possono comprare, ma si possono anche fare da sé, si può autoprodurre. Io non so, Carlo, tu autoproduci qualcosa? Io di sperimentazioni un sacco, quelle riuscite un po' meno, però numericamente meno. Io non sono molto bravo, diciamo, sono autoproduzioni che non... Che non credo che vadano condivise, quindi sono curiosissimo. Io invece sapere. Ho spacciato creme, ecco qua a Radio 24. Io mi diletto molto con le creme per le mani, con il sapone, queste cose qua. Però sicuramente si può fare bravissima. Di più e meglio, e lo si può fare anche in maniera, diciamo, scientifica, nel senso che si può andare a scuola per imparare a fare molte cose. E Lucia Cuffaro, che è la nostra ospite, è una delle maggiori esperte di questo ed ha proprio anche una scuola che si può frequentare, ovviamente online, soprattutto in questo periodo. Buongiorno Lucia. Buongiorno, grazie per l'intervista. Grazie a lei per essere qui con noi. Allora, una delle maggiori esperte italiane di autoproduzione e divulgazione di stili di vita ecologici. Cioè, è ovvio che uno si mette ad autoprodurre per fare del bene al pianeta, non è che si mette ad autoprodurre così anche, no? Certo, ci si risparmia anche, a dire il vero, no? Sì, c'è tantissimo risparmio, ma anche tanto benessere e soddisfazione, perché fare ad esempio il pane, no, che è un gesto, no, che abbiamo perso ma stiamo cercando di recuperare negli ultimi mesi, no, con i lieviti spariti, abbiamo ricominciato anche a fare la pasta madre, il pane. In realtà è anche un modo di fare benessere, perché un pane fatto in casa con pasta madre è più digeribile, dura 10 giorni, non appesantisce durante la giornata, fa risparmiare di un terzo, aumenta in qualche modo le filiere etiche e solidali, perché le farine magari di grano antico le prendiamo dai piccoli produttori, quindi è proprio un benessere l'autoproduzione a tutto tondo, che riguarda sia il risparmio che l'ecologia che le buone pratiche da mettere sul pianeta. Ma soprattutto non riguarda solo il cibo, mi perdoni, nel senso che finché si tratta di produrre il cibo, diciamo, a casa mia si chiama cucinare più che autoprodurre, perché allora anch'io autoproduco le uova sode, però no, adesso al di là della battuta, fare il pane è tutt'altra cosa e siamo tutti abituati ovviamente ad acquistarlo e quasi nessuno fa il pane, anche se adesso invece si sta iniziando e la trovo una bellissima cosa. Ma soprattutto io trovo una bellissima cosa quando ci si occupa di altre cose, come prima diceva Laura, le creme oppure i saponi, gli shampoo, perché trovo che questa cosa qui intanto inneschi una questione di essere capace, di essere in grado di cavarsela, perché io anche in questo periodo, quando a un certo punto si pensava, boh, ci saranno i supermercati vuoti, cioè essere in grado di autoprodurre credo che sia un po' un dovere, almeno saperlo fare, poi ognuno scelga. Sì, concetto di dovere è interessantissimo. In realtà l'autoproduzione non è semplicemente un fai da te, ma è innanzitutto partire da quello di cui siamo circondati, quindi i prodotti della grande distribuzione che purtroppo spesso contengono sostanze tossiche, aggressive, inquinanti, sono costosi, creano sprechi. È un po' riapproparsi invece di ciò di cui abbiamo veramente bisogno, sia da un punto di vista alimentare ma anche cosmetico, dei detersivi, rimedi per la salute, rimedi per il giardinaggio, per i bambini, per gli animali domestici, quindi è essere autosufficienti nel creare i prodotti di uso quotidiano, però facendolo con poche materie prime, anche economiche, prese da filiere etiche, che in realtà ti diminuiscono anche gli imballaggi e l'utilizzo a questo punto di rifiuti. Faccio un esempio: per autoprodurre un brillantante, che poi è anche un ammorbidente, che è anche un decalcificante, che è anche un anticalcare, bastano semplicemente due ingredienti, ovvero 200 grammi di acido citrico e 800 millilitri di acqua demineralizzata, quella del ferro da stiro, shakero e creo in pochissimi secondi un detersivo che appunto mi può fare tutti questi usi, quindi creo qualcosa che non ha impatto ambientale. Cioè questo è il brillantante? Che va bene anche come ammorbidente. Questo lo faccio, Carlo, questo te lo spiego, lo faccio anch'io questo. Ma questo lo voglio... No, ma questo è, io non lo faccio assolutamente, invece è quella classica cosa che chi ce l'ha in casa il brillantante, tutte le volte dici, oddio, la lavapiatti mi ha detto che ha bisogno, vado anche a controllare la spia e se sapessi che si può fare in casa lo farei subito il brillantante. Sì, sì, sì, è così, ma la mia autoproduzione è un po' questa, cioè... Mi piace proprio l'idea di fare ricette molto semplici, spesso con gli stessi ingredienti, che no, in qualche modo, ad esempio il neem, che è un olio che si prende in erboristeria, va bene come antiparassitario piante, va bene per gli animali domestici, va bene per le zanzare, per grandi e piccini. Quindi cercare anche un'ottimizzazione delle risorse. E anche ridurre la quantità di bocce e boccette che abbiamo. Esatto, verissimo. Faccio una domanda stupida, ma poi mia mamma non si accorge della differenza, non è che poi viene a casa mia a cena e prende un bicchiere e dice non hai messo il brillantante, cioè se io uso il suo brillantante ho lo stesso risultato che con il brillantante che si chiama brillantante. È assolutamente indifferente, la caratteristica però principale è quella che mentre il brillantante rilascia una parte di sostanze petrolifere che comunque hanno tossiche. Un residuo poi sui bicchieri, sì, più che altro anche inquinanti, poi le tossiche sono altre più che le petrolifere, quello naturale, l'acido citrico in realtà si inserisce anche nelle bibite o nel vino, quindi è un additivo. C'è caduta proprio sul più bello, è un boicottaggio, Carlo, questo è un boicott. È vero, è vero, è vero, è la lobby dei brillantanti questa. Si vede, si sente, si percepisce anche dalla brillantezza che ci ha lasciato la trasmissione. Però io sono felicissimo di questa, io adesso voglio, ho vuoi provare? Poi ti mando la ricetta, poi ti mando la ricetta, guarda. Ma mettiamola, Lucia mettiamola è tornata. Sul nostro Facebook. Sai che cos'è la difficoltà a volte, Lucia? Porta non tanto trovare le ricette per fare le cose, ma è trovare gli elementi base. Cioè, a me è capitato alla fine di ordinare in Francia certe cose perché non so dove andarle a cercare in città. Io magari uno sta a Milano, a Roma le trova, ma se stai in provincia non è che c'hai i negozi di tutti i tipi. Ma io in realtà, allora la scuola è nata pure per quella, nel senso che io faccio autoproduzione da tantissimi anni, insegno, ho una rubrica televisiva, ho un blog dove tutto è libero e gratuito, insomma la scuola dell'autoproduzione nasce proprio per quello, cioè per facilitare la vita alle persone, quindi anche dove reperire gli ingredienti su ogni videocorso, su ogni lezione è indicato dove, e la maggior parte vanno bene nelle erboristerie e nei negozi alimentari, ma più o meno il 95% troviamo in questi posti, proprio perché io mi piace proprio andare all'essenza delle cose e ridurre anche la difficoltà nell'autoprodurre, perché altrimenti non avremmo tempo di farlo. Se non è facile e veloce non lo facciamo, diciamocelo, le cose vero. Lunghe non ci danno. Io voglio iscrivermi a questa scuola. Allora la scuola c'è, no? E chi si iscrive di solito adesso? La scuola di autoproduzione online, quindi è un percorso che può fare chiunque sia dotato di un computer, sì. O anche di un telefonino. Un cellulare, sì. Esatto. Sì, sì. Chi è che si iscrive? Giovani, che ne so, casalinghe. Beh, un'ottima domanda. La risposta è variegata, nel senso che la maggior parte delle persone, più che avere un'età o un tipo di lavoro, hanno un percorso, sono persone in cambiamento o curiose in qualche modo, hanno capito che se non torniamo un po' all'essenza delle cose, al naturale, se non eliminiamo il superfluo dalla vita, in realtà magari no, viviamo anche peggio, quindi cercando una via più semplice di cambiamento si approcciano alla scuola per questo, perché in realtà è un percorso guidato, quindi abbiamo un gruppo chiuso, facciamo anche le dirette per conoscerci, ci scambiamo email, ricette, foto, è molto divertente anche con la condivisione. Sono prevalentemente donne, ma gli uomini che ci sono quelli ancora più, sono anche più motivati e presi dal conoscere. Certo, perché sono presi dal sacro furore quando ci scrivono. Sì, poi gli uomini veramente, quando gli uomini, ecco, le ricette preferite sono un po' il dentifricio, il deodorante, il pane impazziscono, ma il anche tutte le... Certo, il dentifricio, vogliamo sapere la ricetta assolutamente. Volevo spezzare una lancia per gli uomini. Solo se dopo sarai breve nella classifica. Se dopo sarai breve nella classifica, sì, lei sì, ti sarò dice... brevissimo. Vai. Sarò allora, brevissimo. Ce ne sono varie, così a sentore penso che possa piacere questa. Mi possa piacere che è quella con 4 cucchiai di argilla bianca o verde presa in erboristeria e un più o meno 3 cucchiai di gel d'aloe vera e infine 15 gocce di olio essenziale di menta. Si gira e si crea una pasta gel che è ottima per pulire i denti ma anche con un'azione antibatterica. E quanto dura? Rinfrescante. Dura 3-4 mesi più o meno. Se ne può fare un po'. Sì, poi anche e lì poi bisogna infilarlo nel tubetto? No, perché in realtà basta tenerlo in un barattolo. In un barattolo di vetro, quindi senza acciaio, e con un bastoncino, magari quello del gelato, recuperando quello del gelato di legno, che l'argilla andrebbe toccata con il legno, non con l'acciaio, andiamo a posizionarlo sullo spazzolino. Lo spazzolino rigorosamente biodegradabile, quindi o in cellulosa biodegradabile o in bambù, perché è tutta un'altra gioia lavarsi i denti con uno spazzolino in bambù. Beh, che fa bene alla terra stupendo. E che non è di plastica. Lucia, che si può piantare. Lucia for president, dai, va bene, abbiamo Lucia, la viabilità. Esatto. Allora, Lucia Cuffaro, ricordo, la scuola dell'autoproduzione, grazie mille e alla prossima occasione. Grazie a voi della convivialità, l'entusiasmo. A prestissimo. Grazie. Ciao. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed ecco come sempre la classifica di 5 buone notizie della settimana, le migliori secondo noi. Al quinto posto, biciclette elettriche per dipendenti. Arrivano le prime flotte aziendali. Una nuova prospettiva di diffusione per le biciclette elettriche, qui si parla di Milano, dopo lo sharing pubblico sale disponibilità nelle aziende come Pirelli e Oracle che stanno sperimentando le flotte di e-bike dedicate ai dipendenti. Durante l'emergenza virus si è partiti e poi si è andati avanti con questa fase sperimentale anche negli ospedali Sacco, Buzzi, Fate Bene Fratelli per medici e infermieri. Al quarto posto, le famiglie e la spesa sospesa. A Perugia, 1000 famiglie in difficoltà saranno aiutate per 2 mesi grazie a spesasospesa.org, un progetto di solidarietà partito nel mezzo del lockdown. 27.000 euro dei 225.000 complessivamente raccolti in un mese sono stati destinati all'emporio della Caritas locale a cui potrà accedere chi ha bisogno. Al terzo posto, l'Aula del Senato vota la legge sulla cefalea cronica, è una malattia sociale. A riconoscerla appunto l'Aula del Senato, che il provvedimento è diventato legge con 235 voti favorevoli, 2 contrari, nessuna astensione. Grande soddisfazione e un pizzico d'orgoglio per questa battaglia che ho intrapreso nel 2011, ha commentato la deputata della Lega Arianna Lazzarini. Al secondo l'Emilia-Romagna e il trasporto pubblico. Ne parlammo ai tempi quando l'Emilia-Romagna, la regione, annunciò che da settembre autobus e treni sarebbero stati gratis per gli under 14. Qualcuno disse: ma come? Quelli un po' più grandi, dai 15 ai 19, che usano molto di più i mezzi? No, ecco, è arrivata che ci sarà una fascia gratuita anche per i 14-19enni, ma si inizierà da settembre 2021. E infine al primo posto, due gemelline siamesi unite dalla testa, separate al Bambin Gesù di Roma, unite per la testa dalla nascita, nuca contro nuca, sono finalmente in grado di guardarsi negli occhi e abbracciarsi. Due gemelline siamesi di 2 anni, Ervina e Prefina, giunte a Roma dalla Repubblica Centrafricana, separate grazie ad un intervento straordinario preparato in oltre un anno di studio e in più fasi chirurgiche all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. E a complimenti ovviamente a tutto lo staff che ha lavorato per questo risultato. Give me five. All right. Give me five. All right. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs but heartbreaks, and no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. In queste settimane, Carlo, abbiamo dato spesso notizia di vacanze gratis per medici e infermieri come segno di ringraziamento per il loro lavoro e il loro impegno durante tutte questi mesi di emergenza sanitaria. Questa volta parliamo di un'offerta di alloggio gratis nell'ambito di un progetto del tutto diverso. Si chiama Zero Cani in Canile e si promette si dà poi anche effettivamente un alloggio per educatori cinofili e operatori del settore con esperienza appunto a Vieste. Ci dice qualcosa di più di come funziona questa iniziativa Francesca Toto, che è la responsabile del progetto Zero Cani in Canile, cui è collegata l'iniziativa. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, il progetto Zero Cani in Canile esisteva già, no? Questa è un'altra cosa. Sì, occupa di randagismo. Allora, il progetto Zero Cani in Canile è un insieme di azioni che vanno prima di tutto dalla debellare il randagismo, cosa che a Vieste è stata fatta già da un po' di tempo. Noi non abbiamo più il canile, non abbiamo più randagi, abbiamo solo un sanitario che comunque è un obbligo, è una sorta di pronto soccorso, e questo chiaramente è propedeutico anche allo sviluppo di una città nel settore animal friendly. Infatti quest'anno Vieste è stata definita la capitale del turismo animal friendly. Queste iniziative rientrano nell'ambito del progetto, che ha una serie di azioni che vanno dall'educazione al controllo. Noi siamo una delle poche polizie locali che ha il nucleo tutela benessere animale dedicato, che è il nucleo della polizia locale. Quindi con questa iniziativa noi cosa vogliamo fare? Siccome non abbiamo più cani a Vieste e abbiamo invece due canili di due città vicine, Lucera e Apricena, che hanno affittato un canile che oramai non si usava più nella nostra città, ci stiamo dedicando ad aiutare loro. Mm-hmm. E sono arrivati qui quasi 150 cani, e allora abbiamo deciso di lanciare due iniziative. Una è questa, quella di dare ospitalità gratuita in casa nostra, di noi volontari, per farci aiutare, perché cani che hanno vissuto sempre in gabbia per essere adottati hanno bisogno di lavoro. E come no, certo. Per cui questo sarebbe un grande aiuto per noi. In cambio quello che possiamo dare è una vacanza in una città bellissima e soprattutto animal friendly, perché da noi, come dicevo prima, si può andare col cane in spiaggia, si può fare il bagno, si può andare in tutti i locali, si possono visitare musei, siti archeologici. Diciamo che è uno dei posti ideali davvero per fare la vacanza. E l'altra iniziativa... Però è una vacanza lavoro, se... In parte sì, vero, se ho capito bene, è una vacanza lavoro, nel senso che è quasi uno scambio alla pari più che gratuito, perché si parla di operatori che abbiano una qualifica, che abbiano anche un'esperienza e che devono lavorare 5 ore al giorno con 150 cani. Certo, sì, ovviamente non lavoreranno in contemporanea con 150 cani, ma ci saranno i casi un po' più difficili con cui loro potranno iniziare questo discorso. L'obiettivo comunque è quello di riuscire a rendere questi cani adottabili, per cui diciamo che chi si sta candidando, e sono tantissime persone, ci sono arrivate candidature anche dall'estero, sono persone che di base lo fanno veramente per spirito di volontariato. alla base c'è questo spirito di volontariato, poi sicuramente è un discorso certo. Non cambia, un discorso alla pari, però ci deve essere questo spirito. No, ma lo dicevo per precisare, mi sembra straordinario sì, certo, comunque, eh? Mi sembra una certo. bellissima opportunità. Sì, devo dire che stiamo avendo tantissime proposte, tantissime offerte, chiaramente alcuni non sono educatori operatori, per cui abbiamo bisogno di personale competente perché abbiamo alcuni cani problematici, però valuteremo magari anche degli abbinamenti diversi, adesso siamo ancora in fase di valutazione di tutti i curricula che ci stanno arrivando. E quindi niente, quindi bene. Educare anche l'educatore. Allora io vi devo salutare, Carlo, noi ci rivediamo, ciao, ci risentiamo domani per la prossima puntata sì, di Si può fare. Ascoltatori. Francesca Toto, grazie per essere stata con noi. Il progetto si chiama Zero Cani in Canile e parliamo di Vieste. Grazie in redazione a Danilo Di Trani.